Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Europa terra ancora per 24 ore, chiusi gli aeroporti per la cenere che arriva dall'Islanda. Berlusconi riunisce il PDL per dichiarazioni urgenti, Fini è una prima risposta positiva. L'inviato italiano vede i tre medici di emergency in carcere a Kabul, stanno bene. Processo d'appello per Dell'Utri, l'accusa chiede 11 anni. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Europa a terra, dicevamo, la colonna di cenere sprigionata dal vulcano islandese blocca ancora i cieli e allora cominciamo con un giro negli aeroporti europei. Eventually New Zealand, Hong Kong. I have booked this morning to Manchester, but still waiting. We're from Limerick in Ireland. We're trying to get to Lima in South America. Our flight's been cancelled. Chi verso la Nuova Zelanda, qualcuno di Hong Kong sta cercando di raggiungere Manchester, altri irlandesi in vacanza verso Lima. Come loro in Gran Bretagna, altri 600.000 passeggeri, per cui i voli sono stati cancellati. I primi voli domestici che questa mattina sono partiti dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord avevano fatto sperare in un graduale ripristino della normalità nei cieli britannici. Invece, nei maggiori aeroporti britannici, inclusi Heathrow e Gatwick, la speranza di riuscire a partire per le proprie destinazioni ormai è saltata a domani, sabato 17, alle 2. Il NATS, il servizio di controllo aereo, che dopo l'eruzione del vulcano in Islanda ha ritenuto di chiudere lo spazio aereo in Gran Bretagna, per il secondo giorno consecutivo ha rinviato le partenze e nel primo pomeriggio confermerà se i passeggeri potranno finalmente partire domani. Adesso torno a casa e più tardi mi informerò. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. La nube di cenere ha colpito anche i cieli di Francia. 25 aeroporti, tra cui quelli parigini di Roissy, Charles de Gaulle, Orly e Le Bourget, sono chiusi da ieri sera e lo resteranno almeno fino al primo pomeriggio. La compagnia di bandiera Air France ha annullato tutti i suoi voli per e da Parigi previsti in mattinata, mentre per i passeggeri in transito a Roissy erano stati predisposti 1.400 posti letto per la notte di giovedì. Già ieri Air France aveva annullato circa 200 voli verso Gran Bretagna, Scandinavia, nord della Germania, Russia e Amsterdam. In Francia sarà dunque un weekend difficile per la mobilità. All'effetto della nube di cenere sul traffico aereo si aggiungono i disagi per gli scioperi delle ferrovie, che colpiscono soprattutto i TGV diretti nel sud-est, e il fatto che nell'Île-de-France, regione parigina, le scuole chiudono per le vacanze di primavera. Attilio Gironi, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Anche la Germania deve fare i conti con le nuvole di cenere provocate dall'eruzione di un vulcano in Islanda. L'aeroporto di Francoforte è chiuso questa mattina, seguendo l'esempio degli scali di Amburgo, Berlino, Colonia e Brema. Molti voli che dovevano arrivare stamani a Francoforte, primo aeroporto del paese, sono stati dirottati a Monaco. Le autorità aeroportuali hanno spiegato che la ripresa dei collegamenti potrebbe avvenire rapidamente, non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno. Secondo il quotidiano Bild, anche il volo di ritorno dagli Stati Uniti del cancelliere federale Angela Merkel è stato colpito dalla decisione delle autorità tedesche. Il suo aereo atterrerà questo pomeriggio, ma probabilmente non a Berlino come previsto. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Così il racconto dei nostri corrispondenti in Gran Bretagna, Francia e Germania, ma sono chiusi anche gli scali di Polonia, Danimarca, Bulgaria, Paesi Baltici. Nel pomeriggio si fermerà anche l'Austria. Secondo l'Organismo Europeo per la Sicurezza Aerea, il blocco dei cieli durerà almeno altre 24 ore. Salutiamo il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto ce lo conferma, altre 24 ore almeno. Guardi, la situazione è tenuta costantemente sotto controllo da Eurocontrol, che diciamo sostanzialmente non autorizza i piani di volo, è in contatto con i sistemi di rilevazione vulcanologica di tutto il mondo, quindi voi potete anche andare sul sito di Eurocontrol perché l'aggiornamento è costante. È chiaro che nel momento in cui Eurocontrol ritiene che ci sia un problema dovuto alla cenere, non autorizza il piano di volo e quindi gli aeroporti si chiudono. Anche le autorità nostre, sì, anche noi ci adeguiamo. Insomma. Certo. I passeggeri sono a terra e a questo punto sono moltissimi. Sì. Ovviamente appena riapriranno gli aeroporti saranno ricollocati su altri voli, ma quanto ci vorrà poi perché la situazione torni alla normalità anche passate, ammesso che in 24 ore passino le difficili condizioni nei cieli? Ah, guardi, noi abbiamo pochi precedenti di un blocco così ampio. Noi possiamo ricordare solo il blocco delle Torri Gemelle, ci vuole almeno una settimana per rimettere poi tutto quanto in ordine. È un guaio forte dal punto di vista del traffico. D'altra parte, questo ci ricorda che insomma siamo relativamente padroni del nostro destino di fronte a fatti naturali di questa portata, insomma. Davvero, davvero una portata enorme, sta davvero bloccando tutta Europa. Riggio, solo perché la domanda appunto arriva poi da moltissimi passeggeri. A loro che possiamo dire? I biglietti saranno rimborsati? Che succede? Sì, guardi, lì c'è un regolamento europeo molto chiaro, io adesso lo abbiamo rivisto stamattina e i nostri direttori per quanto riguarda l'Italia lo stanno applicando alla lettera, e cioè non è previsto la sanzione che scatta quando la cancellazione è dovuta a colpa del vettore, perché evidentemente qui c'è un fatto di forza maggiore, però rimane l'obbligo che viene in questo momento ottemperato di riproteggere il passeggero o farlo scegliere, se vuole può avere rimborsato il biglietto, se invece vuole continuare il viaggio in questo caso ha diritto ad essere riprotetto sul primo volo utile successivo e gli si deve dare l'assistenza, e cioè il pranzo e se è necessario anche l'alloggio. Lo stanno facendo tutti, c'era qualche low cost che aveva dei dubbi, i nostri direttori sanzioneranno eventuali comportamenti difformi del regolamento. Quindi almeno su questo punto si può stare tranquilli. Grazie. Questo è perché la previsione c'è e va applicata, insomma. Grazie al presidente dell'ENAC, Vito Riggio. Intanto notizia che arriva in questi minuti proprio dall'Islanda, aumenta il livello di allerta geosismico anche per un altro vulcano. Gli scienziati non escludono possa eruttare anche questo nelle prossime ore. Al lavoro ci sono anche scienziati italiani, anche sul vulcano che sta provocando disagi in questi minuti in tutta Europa. Questo perché alcuni ricercatori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania avevano studiato l'eruzione in corso, lo ha raccontato ad Annarita D'Ambrosio il direttore dell'Istituto Catanese, Domenico Patanè. Dopo l'inizio dell'eruzione del vulcano islandese, che è iniziato il 20 di marzo, alcuni nostri ricercatori sono andati a fare alcune misurazioni di gas. Ma ci si poteva aspettare una situazione di questo tipo? Sì, diciamo sicuramente di sì. Fra le altre cose, già dai primi giorni di marzo io ho notizie che alcuni colleghi islandesi avevano verificato un aumento locale della sismicità e la possibilità che il vulcano potesse entrare in eruzione. Il fatto che il vulcano è localizzato, diciamo, sotto i ghiacci, questo faceva ipotizzare la possibilità di anche attività con grosse espulsioni di cenere. Nel 1783 una storica eruzione, sempre in Islanda, quella dell'Aki, che provocò anche dei cambiamenti climatici, vero? Sì, in quel caso ci furono dei mutamenti climatici, l'estate del 1783 fu praticamente annullata da questa grossa eruzione dell'Aki e l'inverno divenne più freddo, ci furono una serie di problematiche, di carestie sia nel nord Europa che nel nord America, in quanto le nubi vulcaniche offuscarono completamente, diciamo, per molto tempo, diciamo, i cieli e provocarono un inverno freddo e un'eruzione storica, perché poi negli anni successivi diede luogo, a seguito di questi problemi di carestia eccetera, proprio alla rivoluzione francese. Questa è una delle motivazioni che hanno portato alla rivoluzione francese. Voltiamo pagina, veniamo alla politica. Questa mattina il Consiglio dei Ministri, ma Berlusconi ha convocato per il pomeriggio anche l'ufficio di presidenza del PDL dopo il turbolento incontro ieri con Gianfranco Fini. Andiamo allora a Palazzo Chigi da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, breve riunione dell'esecutivo questa mattina a Palazzo Chigi. Nel governo, come previsto, vi è stato l'avvicendamento ufficiale al Ministero dell'Agricoltura. Giancarlo Galan prende il posto di Luca Zaia, divenuto governatore del Veneto. Galan ha già giurato al Quirinale. Altro capitolo, la lotta alla mafia. Poco fa in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Interno Maroni hanno rivendicato i successi ottenuti dalle forze dell'ordine, latitanti arrestati ma anche beni confiscati. Sentiamo su questo Maroni. L'innovazione che abbiamo introdotto, che è stata recentissimamente approvata dal Parlamento della costituzione dell'Agenzia Nazionale per la gestione e l'assegnazione dei beni sequestrati e confiscati. Abbiamo voluto metterla come sede a Reggio Calabria, una sede simbolica. Ci stiamo accingendo ad aprire le sedi operative a Palermo, a Napoli, a Roma e a Milano, e proprio stamattina il Consiglio dei Ministri ha nominato il nuovo direttore dell'Agenzia nella persona del prefetto Mario Morcone del Ministero dell'Interno, che fino ad oggi si è occupato di immigrazione clandestina. Sul fronte politico la coalizione di governo sta vivendo ore di grande agitazione. Ieri lo strappo di fini nei confronti di Berlusconi, la volontà del Presidente della Camera di dare vita in Parlamento a dei gruppi autonomi rispetto al Popolo della Libertà qualora nelle prossime settimane non ci fosse un cambio di rotta del governo, secondo Fini troppo spostato sulla Lega. L'accelerazione data al dibattito da parte di Fini non piace tuttavia al Presidente del Consiglio, che ha convocato per le 17 a Palazzo Grazioli l'ufficio di presidenza del PDL per comunicazioni urgenti. Non si esclude che Berlusconi possa prendere una posizione forte nei confronti di Fini, secondo alcuni addirittura porlo al di fuori del Popolo della Libertà. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Qualche indiscrezione cercheremo di farcela raccontare da Flavia Perina, direttore del Secolo d'Italia, parlamentare PDL finiana DOC. Stiamo aspettando di metterci in collegamento con lei. Nel frattempo andiamo avanti col giornale. Dicevamo della situazione nei cieli d'Europa, le difficoltà del traffico aereo stanno creando problemi anche per la riunione informale dell'Euro gruppo a Madrid, con la partecipazione per l'Italia del ministro Giulio Tremonti. Sul tavolo ancora la situazione greca. E intanto dall'Italia arrivano i dati sull'inflazione: a marzo è salita più 1,4% dall'1,2% di febbraio, il valore più alto da febbraio 2009. L'Istat ha confermato questa mattina la stima preliminare. A spingere l'inflazione soprattutto i trasporti e il prezzo della benzina. Quella verde a marzo è salita del 16,7% su base annua. Andiamo a Milano, dove sono in migliaia a dare l'ultimo saluto a Raimondo Vianello. La camera ardente oggi negli studi Mediaset. Da ieri mattina Sandra Mondaini non è più uscita dalla sua abitazione di Segrate. La camera ardente di Raimondo Vianello è stata allestita questa mattina alle 11. Centinaia di persone gli stanno rendendo omaggio negli studi televisivi di Cologno Monzese. Sandra aveva espresso il desiderio di recarsi a Cologno per un saluto, ma non ce l'ha ancora fatta. Da questa mattina c'erano già decine di persone in fila davanti agli studi di via Cinelandia, all'ingresso numero 5, dove sono state sistemate le transenne e una lunga passatoia blu. Il feretro era arrivato alle 10:30. Per la prima volta una camera ardente è stata allestita alla sede di Mediaset. È anche la prima volta che negli studi televisivi si sono aperti i cancelli anche alle troupe Rai e che possono entrare persone senza chiedere i documenti. Tanti intanto i necrologi sui principali quotidiani italiani. Sandra ha lasciato un ricordo sobrio del marito sul Corriere della Sera. Solo la scritta Raimondo non c'è più e un lungo spazio bianco. Tra i tanti messaggi spiccano quello dei Tognazzi, di Gerry Scotti, di Maurizio Costanzo e dei vertici della televisione commerciale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:18 minuti, le principali notizie di oggi di GR24. Europa a terra ancora per almeno 24 ore, chiusi gli scali per la cenere che arriva dall'Islanda. L'inviato italiano vede i tre medici di emergency in carcere a Kabul, stanno bene. Processo d'appello per Dell'Utri, l'accusa chiede 11 anni. Ma ritorniamo su una notizia di cui già vi abbiamo parlato. Berlusconi riunisce, ha indetto una riunione per le 17 di oggi del PDL per dichiarazioni urgenti. Una prima risposta positiva è stato il commento di Gianfranco Fini. E un istante fa ha parlato di nuovo il premier Berlusconi. Fini, piccoli problemi interni alla forza politica, così ha detto il premier. Qualche indiscrezione cerchiamo di farcela raccontare. Ci ha raggiunto Flavio Via Perina, direttore del Secolo d'Italia e parlamentare PDL finiana DOC. Buongiorno. Buongiorno a voi. Vale ancora innanzitutto la definizione di finiana DOC? Ma no, a me le definizioni non sono mai piaciute. Comunque sicuramente anche con il Secolo d'Italia, col giornale che dirigo, siamo vicini alle posizioni di Fini. Piccoli problemi interni alla forza politica, ha detto Berlusconi un istante fa. Ma è sicuramente una valutazione minimizzante che non si può condividere. È evidente che qua non siamo di fronte a piccoli problemi interni, siamo di fronte alla proposizione in modo serio di problemi interni irrisolti che seguono, ingigantendosi via via, il PDL fin dalla fondazione. Se si continuano a definire piccoli è soltanto il modo per provocare ulteriori incomprensioni. Come sarà secondo lei la riunione di questo pomeriggio? Tranquilla? Ma a me sembra che in questa fase la gran parte delle energie di una parte della classe dirigente del PDL sia dedicata allo spaventare i parlamentari, la classe dirigente sul territorio, eccetera, disegnando degli scenari apocalittici, elezioni anticipate, ve ne dovete andare. Ho letto insomma anche i titoli oggi del giornale di Libero, fuori dal partito. È ovvio che è un fuoco di interdizione per limitare al massimo le adesioni a quella che è la proposta finiana. Penso che insomma si concluderà nelle prossime ore e forse finalmente si comincia a parlare di politica. Perina, per farla arrabbiare un po' di più, ma soprattutto per i nostri ascoltatori, le faccio sentire le parole di Berlusconi di un istante fa. Siamo in un argomento, mi sembra diverso, in cui questi sono piccoli problemi interni a una forza politica. L'abbiamo già commentato, ma così velocemente, si arriverà secondo lei a una rottura o no? No, ma qua di fatto una rottura si è già determinata. Qua c'è la forte richiesta di un atto vero di discontinuità nella gestione del partito. Il partito non può continuare a cullarsi nell'idea che viviamo nel migliore dei mondi possibile e che tutto va per il meglio, perché la verità è quella che quasi metà degli italiani alle ultime elezioni non è andato a votare, che il PDL, soprattutto nel nord, ma non solo, ha perso un considerevole numero di voti, oltre 2 milioni. La verità è che in un sondaggio commissionato dal governo, non dalle forze di opposizione, due giovani su tre hanno detto di provare disgusto o addirittura rabbia per la politica. Questa è la realtà che un grande partito con aspirazioni maggioritarie deve affrontare. Ma andando al concreto, c'è l'ipotesi che alla fine della riunione di questo pomeriggio si esca con due partiti o con l'ipotesi di elezioni? No, secondo me assolutamente no, non c'è da parte di nessuna intenzione di dare luogo a delle scissioni e quindi non si può uscire con due partiti. L'ipotesi delle elezioni è assolutamente infondata, Fini ha chiarito molto bene che intende essere fedele al patto con gli elettori, la legislatura deve continuare e concludersi nei termini regolari. Però i conti si faranno. Deve continuare guidata da Silvio Berlusconi, è stato questo oggetto di uno specifico comunicato ieri e non c'è nulla che abbia contraddetto questa situazione. Però i conti si faranno. I conti si faranno ed è giusto che si facciano, perché alla luce del sole io penso che sia un dato positivo e penso che a questo anche si riferisse Fini nella dichiarazione che avete riferito prima, sia un fatto positivo il fatto che finalmente dopo oltre un anno di vita del PDL sia stata convocata la direzione nazionale per giovedì prossimo, cioè il principale organo politico del partito che dal congresso non era mai stato riunito e quindi finalmente si può parlare, ci si può confrontare in sedi di partito su questi temi anziché sui giornali. Grazie allora la nostra ospite, Flavia Perina, direttore del Secolo d'Italia, parlamentare PDL finiana che ci ha raggiunto mentre il Parlamento è al lavoro e quindi era molto occupata. Andiamo avanti intanto con il giornale e con la situazione invece dei tre italiani in carcere in Afghanistan. Li ha incontrati questa mattina l'inviato di Frattini a Kabul, Massimo Iannucci. Stanno bene, ha riferito, sono in ansia soprattutto perché non è chiaro il loro futuro. Per domani Emergency ha organizzato a Roma una manifestazione in sostegno. Questa mattina al microfono di Alessandro Milan, Cecilia Strada. Il punto è che noi denunciamo gli orrori della guerra da entrambe le parti. Posso dire la mia opinione personale, io francamente mi aspetto di più dai soldati della NATO e di ISAF di quanto non mi aspetti da dei terroristi irregolari. E da questo punto di vista per me è più grave quando a morire sotto le bombe che spianano i villaggi sono dei bambini ad opera delle forze internazionali, proprio perché loro agiscono nel nome del diritto. I talebani non agiscono nel nome del diritto. Ma cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che la mafia in Sicilia rispetti i diritti quanto li rispetta lo Stato italiano che combatte contro la mafia? Non credo. La filosofia di Emergency è curiamo tutti, anche i talebani, non restiamo in silenzio di fronte agli orrori della guerra. Questa mattina nel nostro sondaggio vi abbiamo chiesto se siete d'accordo con questa idea, il 68% di voi ha risposto di sì. Ma cosa c'è da aspettarsi per gli italiani detenuti a Kabul? Buongiorno a Fausto Biloslavo. Buongiorno. Innanzitutto una svolta all'incontro di questa mattina con l'inviato italiano. Ora che succede? Sì. Sì, una svolta prevista che ha ovviamente indirizzato il caso nel binario giusto, cioè da Lashkar Gah, la provincia di Helmand, 800 km più a sud, sono arrivati a Kabul, dove ha sede il governo, dove c'è l'ambasciata. E io penso però che la vicenda non sarà un po' lunga, insomma, forse ci saranno anche delle sorprese, anche delle brutte sorprese. Allora, i tempi, secondo te, Fausto? Ma dunque, innanzitutto le tre posizioni sono dei tre operatori sono diverse l'una dall'altra, potrebbe anche esserci, e questo sarebbe un svolto positivo, anche se per il momento insomma non se ne parla molto, che uno, il più giovane, Matteo Pagani, venga rilasciato anche magari a giorni. E poi i tempi invece sono lunghi, nel senso che comunque sono nelle mani dei servizi di sicurezza afghani, che a che se ne dica esiste una legislazione, tra l'altro segreta, firmata dal presidente Karzai, che di fatto dà un tempo quasi limitato insomma per i reati di terrorismo. Ovviamente le autorità italiane stanno spingendo per portare questi tre davanti a un giudice, che quindi davanti a un giudice in 15 giorni deve decidere poi se incriminarli oppure no, insomma, ecco. Da quanto però ho saputo questa mattina, penso che i servizi segreti afghani in questo caso abbiano trovato secondo loro delle prove insomma abbastanza consistenti, e questo mi colpirebbe molto, perché io sono sempre convinto che in particolare Marco Garatti, che ho conosciuto, uno dei tre, non è un bombarone in camice bianco, insomma, ecco, vediamo cosa salterà fuori. Si parla anche nelle prossime 1, 2, 3 giorni di una sorta di conferenza stampa da parte dell'intelligence afghana, dell'autorità afghana, in cui mostrerebbero queste prove, e riusciremo a capire cosa sono. Grazie allora Fausto Biloslavo. Andiamo a Palermo, anche qui una notizia di questi minuti: si è conclusa la requisitoria dell'accusa al processo d'appello per Marcello Dell'Utri, era cominciata a settembre con diversi stop. Cosa chiese dell'accusa Giampiero Casagni? Sì, buongiorno. 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. È stata questa la severa condanna richiesta dalla Procura Generale di Palermo per il senatore PDL Marcello Dell'Utri a conclusione della requisitoria nel processo d'appello. Dell'Utri, che era stato condannato dal Tribunale a 9 anni di reclusione, al momento della richiesta avanzata dal PG Antonino Gatto si era allontanato dall'aula. E poco dopo ha detto di non riconoscersi nell'uomo descritto dal rappresentante della pubblica accusa, sostenendo di essere oggetto da 15 anni di una persecuzione. La requisitoria del PG, come hai detto tu, era cominciata a settembre dello scorso anno ed era stata interrotta a novembre, quando la Corte d'Appello aveva accolto la richiesta dell'accusa di sentire il pentito Gaspare Spatuzza, ma anche i boss Giuseppe e Filippo Galiano. Adesso, dopo la richiesta di aggravamento di pena per Dell'Utri, la parola è alle parti civili, e poi dal 30 aprile sarà la volta della difesa. La sentenza dovrebbe essere emessa il 4 giugno. È tutto. Grazie a Giampiero Casagni. Prima di chiudere alleggeriamo un po' con lo sport, col calcio. Questa sera il derby d'Italia decisivo per il campionato, si gioca Inter-Juventus. Formidabile sfida quella di stasera tra Inter e Juventus, che per giunta arriva di venerdì, giorno strano, per esigenze europee dei nerazzurri impegnati martedì contro il Barcellona nella semifinale di andata di Champions. Una tempesta perfetta, un incrocio di destini denso di aspettative. Caricata dagli ultimi veleni di Calciopoli, la Juventus ha un sogno possibile: far cadere l'Inter in un momento delicatissimo della sua stagione, sia perché arriva prima della sfida col Barca, sia perché la squadra di Mourinho non può permettersi di perdere altro terreno dalla Roma, che domenica l'ha superata dopo averle rimontato 14 punti. La Juventus, oltre alla rabbia, mette in campo poi un obiettivo personale: uscire da un tunnel infinito e ritagliarsi un posto in Champions. Per Zaccheroni, che in quel famoso 5 maggio, quello dello scudetto strappato all'Inter e sulla panchina della Lazio, sarebbe una meravigliosa rivincita dopo settimane di Via Crucis. In attesa del gong, la tensione è a mille. L'ultima volta a Torino finì con una rissa da saloon, con 6 ammoniti e 2 espulsi. Per l'arbitro D'Amato, straordinaria in vista, sperando che non debba trasformarsi in sceriffo. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto con questo per GR24. Un saluto da Anna Migliorati, che ha curato e condotto questa edizione. In regia Carmelo Lauricella. Vi lascio con Italia in Controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.